Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori. Questa sera parliamo di un tema che ci tocca a tutti da vicino, che tocca soprattutto le nostre tasche, il nostro portafoglio. Come non finire dissanguati dalle tasse, 5 mosse per cambiare il fisco. E questo è il sottotitolo del libro Il Salasso, e si capisce subito che cosa si riferisca Il Salasso, scritto da Dino Pesole. Buonasera Dino Pesole. Buonasera, grazie per l'invito. Dino Pesole, giornalista del Sole 24 Ore, ma è anche una voce nota di Radio 24, ha scritto questo libro sulla base della sua esperienza, segue quotidianamente i problemi dei conti pubblici, i problemi del bilancio dello Stato, il problema del sistema fiscale, un libro che ha una prefazione di Carlo Gelio Ciampi e un'introduzione di Sergio Rizzo. Allora, Dino Pesole, Il Salasso, perché di tasse ne paghiamo troppe, ne paghiamo tante e ne paghiamo anche in maniera complicata, complessa. Il sistema fiscale italiano è un sistema, direi, tra quelli che ha tante norme, sembrano tutte fatte apposta, diceva Einaudi, per turbare la vita ai contribuenti. È ancora così, Dino Pesole? Per gran parte è ancora così, perché noi, oltre ad aver raggiunto una pressione fiscale che è altissima, siamo al 45,3% del PIL, che è il livello più alto del secondo dopoguerra, abbiamo un sistema complesso, farraginoso, abbiamo un sistema fiscale che fotografa una realtà del nostro paese, che è una realtà sicuramente complessa e articolata, ma è un sistema fiscale che certamente non può essere definito equo. Dalle indagini che io riporto nel libro emerge chiaramente che oltre l'80% del gettito fiscale del nostro paese viene garantito dai lavoratori dipendenti pubblici e privati e dai pensionati. Certo, si dirà, questo fotografa la situazione del mercato del lavoro italiano, il problema è che però si tratta di una fetta di contribuenti che però rappresenta il 30% della ricchezza nazionale, quindi qui c'è qualcosa che non funziona nel nostro sistema, e nel libro io provo ad avanzare delle proposte. Ecco, si parla tanto appunto di evasione fiscale, di necessità di lottare contro l'evasione fiscale. Quando si tratta di fare nuove spese, da tutte le parti politiche si dice troviamo i fondi attraverso la lotta all'evasione, è un rituale che da anni ci accompagna. Però ecco, quali potrebbero essere le proposte concrete sia per combattere l'evasione sia per affrontare il tema di un sistema fiscale appunto, come dicevi, più equo? Sono tutti temi molto connessi, così come è connesso al tema dell'evasione, alla riduzione delle tasse, il tema del controllo della spesa pubblica e quindi di una selezione della spesa pubblica. Oggi si parla di spending review e credo questo è il compito più importante della prossima legislatura. Sul fronte dell'evasione fiscale, allora, tanti numeri, l'evasione fiscale ha raggiunto nel nostro paese cifre allarmanti, stiamo parlando di 120-150 miliardi l'anno. A fronte di questo occorre sicuramente perseguire attraverso gli strumenti ordinari, che sono quelli repressivi. Ormai l'Agenzia delle Entrate può contare su uno strumentario infinito, quindi non c'è più bisogno di mettere in campo nuovi strumenti, ce ne sono, occorre farli funzionare, il redditometro, il redditometro, lo spesometro, gli studi di settore, potremmo fare un elenco infinito. Il problema è che però tutto questo non basta, cioè agire solo sul fronte della deterrenza, e qui si aprono scenari che sono quelli che io provo a delineare nel libro attraverso alcune proposte. Ecco, qui dice 5 mosse per cambiare il fisco: semplicità, correttezza, trasparenza, tempestività e premialità. Ecco, mi sembra che quest'ultimo punto, la semplicità, la correttezza, la trasparenza, la tempestività, sono immediati, si possono capire, anche se saranno certamente difficili da raggiungere. Ma cosa vuol dire premialità? In qualche modo lo possiamo far conseguire dagli altri 4 criteri, cioè laddove l'amministrazione finanziaria finalmente riesce a essere credibile, trasparente, semplice, corretta, il risultato non può che essere uno dal mio punto di vista, ed è la proposta, come dire, forte di questo libro: provare a immaginare un sistema di premialità nei confronti dei contribuenti onesti, di quelli che da decenni sopportano il peso fiscale anche della folta platea dei furbi che evadono il fisco. E allora io lì provo nel libro a lanciare alcune proposte. peraltro non è una voce isolata nel deserto, perché già il decreto cosiddetto Salva Italia del governo Monti dello scorso anno, quello che venne varato per ricordarci, per spegnere l'incendio e evitare il tracollo del nostro paese, beh, lì già è previsto un sistema di premialità per le imprese, piccole imprese che siano congrue con gli studi di settore. Io intendo inserirmi con la mia proposta nel solco di questo provvedimento e cominciare a immaginare dei riconoscimenti, anche se vogliamo simbolici, che potrebbero riguardare ad esempio la l'ISEE, questo indicatore di normalità economica in base al quale vengono attribuiti servizi sociali, servizi pubblici, e provare a dare un segnale nei confronti di quella folta platea, e sono tantissimi i contribuenti che pagano regolarmente le tasse. Ecco, quindi possiamo pensare di arrivare un po' anche come si fa con i supermercati, ad avere dei punti fedeltà dopo averne raccolti, essere stati fedeli con il fisco per 10 dichiarazioni, magari avere una dichiarazione gratis, forse è un po' troppo, Pesole. Sì, però potrebbe essere un sistema, perché il problema è che noi, se continuiamo a contrapporre in questa sorta di guerra di religione autonomi da un lato, dipendenti dagli altri, in un paese in cui la responsabilità è sempre altrui, non ne usciamo più. Il sistema fiscale è lo specchio di un paese diviso, di un paese che rappresenta molte facce. Allora io credo che sia giunto il tempo di arrivare a una ricomposizione di questo conflitto e cercare di fare un passo in più, voltare pagina. Per voltare pagina la prima mossa la deve fare l'amministrazione, non ci vuole nulla, e sono riforme a costo zero, essere semplici. La dichiarazione dei redditi non può trasformarsi in una corsa ad ostacoli, se no è un incentivo implicito a evadere. Quindi semplicità, essere corretta, essere tempestiva nei rimborsi, al tempo stesso però i cittadini devono cominciare a cambiare passo anche loro e a considerare chi evade non un furbetto da emulare, ma un qualcuno che sta comunque arrecando un danno all'intera collettività. Quindi quello che io auspico è un cambio di civiltà. Certo, si potrà dire chissà quanti anni ci vorranno, ma io credo che forse occorrerà cominciare da qualche parte. Bisogna cominciare, anche perché, come ricorda Carlo Azeglio Ciampi nella sua introduzione, ecco, è un percorso che già Einaudi all'inizio degli anni 50, ma anche prima di alcuni suoi scritti, proponeva, e Ciampi appunto ricorda un passo della riforma tributaria del buon governo di Luigi Einaudi. Possiamo leggerlo: date allo Stato buoni funzionari, capaci, solerti, animati da vera giustizia per i contribuenti e da zero per il servizio pubblico, e le imposte esistenti frutteranno 100. Date impiegati svogliati, malcontenti, abitudinari, nemici per principio dei contribuenti, e le stesse imposte frutteranno 25. Ecco, questo è Luigi Einaudi, citato da Carlo Azeglio Ciampi nella prefazione di questo libro, che lo ricordo e ringrazio Dino Pesole per essere stato con noi questa sera. Dino Pesole, autore del libro Il Salasso, come non finire dissanguati dalle tasse, 5 mosse per cambiare il fisco, edito da Castelvecchio. Sono 184 pagine per 16 euro. E dopo aver parlato di imposte con Dino Pesole, concludiamo la puntata di oggi di Economia in Pagina con un volume molto più storico e metodologico, L'economia del bene e del male, scritto da Thomas Ledlacek e da una prefazione di Václav Havel. Thomas Ledlacek insegna all'Università Carolina di Praga, è una delle università più antiche del mondo, ed è un grande esperto della storia economica. Ecco, in questo saggio si ripercorrono tutti i fondamenti della storia dell'economia nell'ottica particolare della morale, dell'etica. Si è parlato tanto di etica, ma è interessante appunto leggere anche l'etica in maniera, diciamo così, trasversale, guardando per esempio come la Bibbia può essere un libro in cui si parla di economia, come i grandi classici della filosofia e della storia sono anch'essi dei libri in cui si parla di economia. Ecco, questo professore di economia appunto all'Università Carolina di Praga, ricordo Tomasz Ledrecek, ha compiuto questo viaggio, un viaggio che è particolarmente interessante perché attraverso la storia ci porta a guardare alla realtà dell'economia, un'economia che comunque è ancora un contrasto tra il bene e il male, tra il positivo che c'è in ogni persona e quello che diceva in fondo Hobbes, homo homini lupus, cioè c'è anche il fatto che un uomo è contro un altro uomo. Ecco, come giudicare questo contrasto, questo conflitto che si ripercorre nella storia, può essere molto utile leggere questa Economia del bene e del male, è una prefazione di Václav Havel e edito da Garzanti, sono 25 euro per 450 pagine. Grazie a Gianmarco Ferronato in regia e a Luca Cremonese in redazione, l'appuntamento con Economia in pagine è per sabato prossimo.